Gesù, narratore di parabole, una specie di fiction. La parabola vuol dire storia inventata per presentare plasticamente un'altra storia, quella della presenza e dell'azione promessa di Dio. Parabola interpreta il reale, fa venire alla luce la verità. Tra l'altro è l'unica, forse una delle pochissime parabole che l'Evangelista Giovanni racconta. Ma cosa c'è in antecedenza al racconto del pastore bello? Questo brano del pastore bello è un brano polemico. Non è un racconto idilliaco. Per prima le autorità religiose avevano espulso dalla sinagoga il cieco dalla nascita, a cui si erano aperti gli occhi nelle acque di Siloe, ed era sabato. Gesù fa riferimento alla cecità dello spirito. Questi capi si sentono sotto accusa e dicono: forse che siamo ciechi anche noi. Gesù mette sotto accusa costoro che si dichiarano guide religiose del popolo, costoro che rivendicano a sé il titolo di pastori, e dietro il titolo di pastori nascondono la loro voglia di potere. Provo a riflettere insieme con voi. Già nell'Antico Testamento, davanti alle guide, ai pastori che delle pecore avevano approfittato, le avevano disperse. Sembra di riudire nelle parole di Gesù queste parole dell'Antico Testamento. C'è una differenza, sembra dire Gesù, tra il pastore e il mercenario. Tra il pastore e colui che lo fa per interessi suoi. Sono io, dice Gesù, il buon pastore. E per per spiegare questo, offre due connotazioni. Il primo segno è di riconoscimento. Il buon pastore offre la vita per le pecore. A uno che lo fa per guadagno, delle pecore non gliela importa un granché. Se viene il lupo, abbandona le pecore e fugge via. Allora leggiamo queste parole di Gesù, è vero, a Pasqua, nell'orto degli ulivi, quando dice: se volete prendete me, ma lasciate liberi loro, le pecore. Il pastore offre la vita per le pecore, è uno che dona la vita. Dà l'anima, guai a chi gliela tocca, la difende fino al prezzo della morte. La difende dai lupi, e i lupi per il Vangelo non sono gli atei, ma sono quelli che si vestono di agnelli, ma dentro sono lupi rapaci. Sono quelli che dicono Dio, dicono religione, dicono valori cristiani, ma è tutta facciata. Dentro sono rapaci. Si servono della religione per i loro interessi o per i loro malaffari o per le loro inumane esecuzioni. Cattivi pastori, cattive guide. Nel nostro brano Gesù dà un altro segno di riconoscimento. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore. I pedagogisti sul conoscere potrebbero raccontare chissà quante cose. Le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Conoscere, lo si sa, nella Bibbia non è il verbo di una conoscenza puramente di testa, è il verbo che dice una relazione, un rapporto. Lo stesso legame, dice Gesù, che intercorre tra me e il Padre. Io senza di voi non riesco a pensarmi, Gesù. E noi senza di lui forse non riusciamo a pensarci. E la cosa, dice Gesù, è reciproca. Lui, la tua voce, la riconosce tra miliardi di voci. Sei tu per lui. E anche noi, a nostra volta, la voce di Gesù, dovremmo riconoscerla tra miliardi di voci. È come se a poco, leggendo le scritture, diventa più profonda questa sintonia al punto di discernere quando c'è la voce di Gesù, la voce del Vangelo, quando invece ci sono discorsi perfetti, teoremi religiosi, dogmi, ma non c'è la voce di Gesù, che non faceva teoremi, ma come il pastore viveva, camminava con il gregge, con la gente, annullando ogni distanza. Allora, tre piccoli flash per arrivare a dire qualcosa. L'amore è il linguaggio dei cuori, no? E delle orecchie. Cioè, l'amore è il linguaggio dei cuori, non delle orecchie. E proprio perché è un dono. E il dono è tale, può essere udito da ciascun uomo, da tutti i popoli. La voce del pastore buono è un linguaggio universale. Dare la vita è il massimo. È il linguaggio, quello del dono gratuito, che è compreso anche dalle pecore, anche quelle che sono smarrite per la strada o che hanno un mantello diverso di diverso colore. Altro piccolo flash. È importante però che i cuori sappiano aprirsi. La paura, l'annebbiamento della mente, ad accettare la verità essenziale o le verità essenziali, spingono a cercare altre risoluzioni, rassicurazioni verbali, quando invece le cose che suscitano sono le più evidenti di qualsiasi parola, quando appunto la parola del pastore buono, il Signore, per il suo gregge, è più grande di qualsiasi regola scritta dagli uomini. il cieco guarito di sabato non è da Dio perché non osserva il sabato. E Gesù qui manda una bombetta molto critica. Un altro piccolo flash. Così i giudei cercano da Gesù una dichiarazione esplicita: ma sei tu il Messia, il figlio di Dio? E non si avvedono, loro sì che sono ciechi, delle parole: io sono il buon pastore, io do la vita per le pecore. Questo io sono, io do, io apro la porta. È una passione enorme, perché è indice della sua missione. È un riconoscimento. Quando uno dice io, è un riconoscimento. Ma il cuore resiste e la mente cavilla. Addirittura le mani rincorrono i sassi. Rivalità, paura, egoismo mentale, egoismo di potere, egoismo di cultura. Così anche il gregge viene deriso e diviso. Chiudo. Noi fortunati, perché quando sentiamo nel Vangelo io sono il pastore bello, capiamo che la bellezza del pastore è un fascino, che hanno la sua bontà, il suo coraggio, cioè capiamo che la bellezza è l'attrazione verso il Dio che si dona anche alla mia, alla nostra fatica quotidiana. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra.